Capitolo 35. Dio disse a Giacobbe: alzati, va ad abitare a Betel. Là farai un altare al Dio che ti apparve quando fuggivi davanti a tuo fratello Esaù. Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a tutti quelli che erano con lui: togliete gli dei stranieri che sono in mezzo a voi, purificatevi e cambiatevi i vestiti. Partiamo, andiamo a Betel. Là farò un altare al Dio che mi esaudì nel giorno della mia angoscia e che è stato con me nel viaggio che ho fatto. Essi diedero a Giacobbe tutti gli dei stranieri che erano nelle loro mani e gli anelli che avevano agli orecchi. Giacobbe li nascose sotto la quercia che è presso Sichem. Poi partirono. Il terrore di Dio invase le città che erano intorno a loro e nessuno inseguì i figli di Giacobbe. Così Giacobbe e tutta la gente che aveva con sé giunsero a Luz, cioè Betel, che è nel paese di Canaan. Lì costruì un altare e chiamò quel luogo El Betel, perché Dio gli era apparso lì quando egli fuggiva davanti a suo fratello. Allora morì Debora, balia di Rebecca, e fu sepolta al di sotto di Betel, sotto la quercia che fu chiamata Allon Bacut. Dio apparve ancora a Giacobbe quando questi veniva da Paddaram e lo benedisse. Dio gli disse: il tuo nome è Giacobbe. Tu non sarai più chiamato Giacobbe, ma il tuo nome sarà Israele. E lo chiamò Israele. Dio gli disse: io sono il Dio onnipotente. Sii fecondo e moltiplicati. Una nazione, anzi, una moltitudine di nazioni discenderà da te. Dei re usciranno dai tuoi lombi. Darò a te e alla tua discendenza dopo di te il paese che diedi ad Abramo e ad Isacco. E Dio se ne andò risalendo dal luogo dove gli aveva parlato. Allora Giacobbe eresse nel luogo dove Dio gli aveva parlato un monumento di pietra, vi fece sopra una libazione e vi sparse su dell'olio. Giacobbe chiamò Betel il luogo dove Dio gli aveva parlato. Poi partirono da Betel. C'era ancora qualche distanza per arrivare a Efrata quando Rachele partorì. Ella ebbe un parto difficile. Mentre penava a partorire, la levatrice le disse: non temere, perché questo è un altro figlio per te. Mentre l'anima sua se ne andava, perché stava morendo, chiamò il bimbo Benoni, ma il padre lo chiamò Beniamino. Rachele dunque morì e fu sepolta sulla via di Efrata, cioè di Betlemme. Giacobbe eresse una pietra commemorativa sulla tomba di lei. Questa pietra commemorativa della tomba di Rachele esiste tuttora. Poi Israele partì e piantò la sua tenda di là da Migdal-Eder. Mentre Israele abitava in quel paese, Ruben andò e si unì a Bila, concubina di suo padre, e Israele venne a saperlo. I figli di Giacobbe erano 12. I figli di Lea: Ruben, primogenito di Giacobbe, Simeone, Levi, Giuda, Issacar, Zabulon. I figli di Rachele: Giuseppe e Beniamino. I figli di Bila, serva di Rachele: Dan e Neftali. I figli di Zilpa, serva di Lea: Gad e Asher. Questi sono i figli di Giacobbe che gli nacquero in Paddaran. Giacobbe venne da Isacco, suo padre, a Mamre, a Kiriat Arba, cioè Hebron, dove Abramo e Isacco avevano soggiornato. La durata della vita di Isacco fu di 180 anni. Poi Isacco spirò, morì e fu riunito al suo popolo, vecchio e sazio di giorni. Esaù e Giacobbe, suoi figli, lo seppellirono.